Ehi, sono Peppe, un ricercatore e docente indipendente a contratto, a collaborazione, freelance delle ricerche della docenza, diciamo così, a intermittenza retributiva e a continuità di attività di ricerca e docenza. In queste settimane avrei dovuto essere a Venezia, allo IUA, va a tenere un workshop sulle nuove istituzioni culturali. Invece siamo qui in quarantena e grazie alle storie al telefono leggerei un inedito di Guido Morselli, grande autore del Novecento, visse tra il 1912 e il 1973. Nulla fortuna in vita, il suo primo vero libro fu pubblicato subito dopo la sua morte prematura, si vede la morte del 73, Morselli, ed è quel grande capolavoro di Roma senza Papa, pubblicato da Adelphi. Qui leggerei un inedito, che è un estratto dal Grande Incontro, che è un breve scritto rimasto inedito fino ad oggi, faceva parte della raccolta Racconti Brevi, offerti nel 72, l'anno prima della sua morte, da Guido Morselli all'amica Maria Bruna Bassi. Leggo un estratto che è stato pubblicato come anticipazione sul Domenicale del Sole 24 Ore del 29 settembre 2019, che ho ritrovato in mezzo, archiviato in mezzo a Roma senza Papa, che stavo rileggendo in questi giorni. Il Grande Incontro, come racconto, è stato pubblicato da De Piante Editore, un editore di Busto Arsizio, il 4 ottobre del 2019. Questo estratto, che leggo dal Sole 24 Ore, questo ritaglio del Sole 24 Ore, è intitolato Quando Stalin andò dal Papa in Vaticano, Guido Morselli. Pallido e con la fronte un po' comadida, ma calmo, quasi freddo, il personaggio in bianco aveva lo sguardo al crocifisso, ritto all'angolo della scrivania. Ascoltava. Non ci sono ostacoli, ripete l'altro, ma il regime ha bisogno di consolidarsi. La penetrazione universale delle nostre ideologie, l'estensione, la rapidità delle nostre conquiste sono indubbiamente fattori positivi, ma non bastano. È della loro consistenza, della loro durata che io voglio assicurarmi. Ciò che vi offro è una conciliazione de facto, ciò che vi chiedo è una consulenza. I nostri due governi in realtà si assomigliano. Senza volgere la testa, il primo personaggio proferì adagio: che ci può essere di comune tra la cattedra di Pietro ed un governo fondato sulla sopraffazione e l'iniquità, disposto alla violenza sacrilega? È parecchio di comune, asserì l'altro temerariamente. La ecumenicità, l'intransigenza, e poi la patologia, le eresie, gli scismi. Notate le affinità tra il deviazionismo trotskista e il giansenismo, tra Tito ed Enrico VIII, i due scismatici per prurigine di autonomia. Il papato è sempre uscito vittorioso dalle sue crisi, io lo so, ed è perciò che io sono qui a proporre un patto di reciproco riconoscimento delle nostre sfere di interessi e a domandare la vostra collaborazione amichevole. Mi sono servito dei tecnici americani e degli scienziati tedeschi, attingerò adesso all'esperienza, all'abilità delle vostre gerarchie. Vostra Signoria non mancherà di apprezzare la mia schiettezza. Vorrei che mi prestasse, con tutte le cautele del caso, una missione di esperti, scelti per intanto tra i dirigenti della propaganda fide e della segreteria di Stato. Sulla nostra discrezione ermetica, Vostra Signoria faccia pieno assegnamento. In questo campo nessuno ci eguaglia. Non posso negare che il mio governo stia lottando contro difficoltà interne di una considerevole gravità. Se riusciremo a vincerle, tanto meglio, altrimenti occorrerà un diversivo, a qualunque costo. Mi spiego? Con la sua adesione, Vostra Signoria può scongiurare una catastrofe. Non tenterete il Padre vostro, è scritto. Nel tono in cui la citazione venne pronunciata erano amarezza e collera, ma anche decisione irremovibile. Si apre fra di noi la vita a una coesistenza pacifica, ribatté l'altro addormentandosi i grossi baffi cespugliosi. Un rifiuto significherebbe la guerra a breve scadenza, la terza guerra. Se è vero che preferite la pace, dimostratelo. La sinistra inanellata si levò in gesto di corrucciata protesta. Era il gesto definitivo che fulminava in antico l'anatema, dannandolo sulla terra e per l'eternità. Ma la mano ricadde subito e si posò sulla scrivania, ove col moto lieve delle dita sembrò accompagnare le parole che seguirono, placide, soavi persino, di una soavità che il loro significato rendeva inammissibile e assurda. Avevamo sperato e invocato il prodigio di una resipiscenza, di un ritorno, e invece, figliuolo, siete venuto per offendere, per minacciare un criminoso attentato alla libertà, alla vita medesima del pastore, e per vieppiù sfidarci. Ci ponete un dilemma che credete perentorio. Ma l'alternativa a cui alludete esiste per il mondo, che vi si dibatte miseramente nella sua vanità e infermità, ma non esiste per la Chiesa di Cristo. Per essa la pace si identifica col suo contrario. Santità è milizia, intrepida, fanatica milizia, al cui paragone impallidisce il dissennato zelo dei vostri adepti. In Polonia, disse l'altro, in Polonia e in Ungheria, la mia campagna antireligiosa vi sta sradicando. Voi lo dite imprudentemente. Nel travaglio, nel dolore dei suoi membri, la Chiesa si afferma e prospera. Le lacrime, il sangue incolpevole la esaltano. Il desiderare la pace è proprio delle potenze terrene. Voi stesso ne avete bisogno e ce la chiedete. Predicate la lotta, ma ne avete paura, mentre la Chiesa non la teme, la sollecita, la cerca, la vuole. Ah, è così allora, esclamò l'altro genuinamente sorpreso. Alla vostra dottrina bellicosa, voi cercate la lotta, e io non lo immaginavo. Ed è in questo la spiegazione dei vostri successi? I fasti della Chiesa sono opera di una sapienza onnipotente, seguitò il personaggio in bianco, con vivacità ora e quasi con baldanza, ma la vostra supposizione, anche se maliziosamente ispirata, non era del tutto, signor maresciallo, non era del tutto, signor maresciallo. E il visitatore si levò in piedi. Mosse qualche passo, concitatamente. E il mio paese è abbastanza forte da far arrivare le sue armate sin qui in pochi giorni. Questo vostro palazzo non sarebbe risparmiato. Non abbiamo scrupoli, superstizioni, noi. Non faremmo come i tedeschi. Sappiatelo. Ecco, Guido Morselli, un estratto del Grande Incontro, un inedito del 72, pubblicato nel 2019. E buona quarantena a tutti, e speriamo a presto.